Il gastronauta di Davide Paolini. Ritorno alla terra, in viaggio nel mondo dell'agricoltura. Buona giornata cari amici. Ebbene, dal gastronauta coi panni dello chef o del sommelier passiamo al gastronauta sotto vesti di agricoltore. Bene, oggi parleremo di un tema importante dell'agricoltura, perché tutti pensano che questo settore sia fermo, sia antico, sia su posizioni di decenni. In realtà è un settore in grande movimento che si sta molto rinnovando, ovviamente mantenendo anche quello che di positivo è stato nel tempo, a cominciare dalla tradizione. Io dico sempre che la tradizione è un'innovazione riuscita, e oggi parleremo proprio di questo, dell'innovazione. L'innovazione in agricoltura portata proprio dai giovani agricoltori. Bene, c'è un movimento di giovani agricoltori, poi lo vedremo, lo analizzeremo, non indifferente in questo paese. E io credo molto nell'agricoltura per il futuro. Spero che questa mia speranza non venga così, non sia vana. Ma oggi andremo così ad incontrare una serie di giovani che hanno portato qualcosa di loro, di nuovo, magari molti nelle loro famiglie, nelle loro aziende, però sicuramente qualcosa si sta muovendo di molto molto importante. Allora io comincio questo giro veramente da qualcosa che mi ha colpito questo personaggio, con questa sua, diciamo, innovazione, soprattutto perché poche settimane fa ero appunto nel paese di Andrea De Magistris, con cui ora parleremo, a Cravanzana in provincia di Cuneo. Ebbene, ero stato per questa festival, chiamiamolo così, della Nocciola, un paese di 400 abitanti dove ben 800 ettari, su 800 ettari 700 sono nocciole. Credo che sia veramente la capitale italiana dove oggi molti giovani stanno innovando e stanno così producendo, quindi arrivano dalla materia prima con una filiera corta. Mi sembra di ricordare un'azienda che si chiama Grancia, e devo dire che fa dei prodotti davvero straordinari, appunto partendo dall'agricoltura. Ma noi, questo personaggio si chiama, ho detto, Andrea De Magistris, e ha portato un qualcosa di completamente nuovo per questo paese, il bambù. Però voglio farmi raccontare da lui appunto la storia di questa sua innovazione. Buongiorno De Magistris. Buongiorno. Se lei mi racconta appunto cos'è questa innovazione sua, questa coltivazione particolare, questa produzione particolare che ha portato a Cravanzana. Volentieri. Allora, noi innanzitutto siamo tre soci, e la mia idea si basa sul lavoro di Thomas Fröse, che circa 20 anni fa si è trasferito a Cravanzana e ha iniziato questa produzione e coltivazione sperimentale di bambù. E tra queste, in questa coltivazione, lui aveva anche selezionato alcune piante che potevano essere utilizzati per fini alimentari, come nella tradizione orientale. Quando io l'ho conosciuto, allora abbiamo deciso di potenziare questa sua idea. Ci siamo detti, visto che in Oriente il bambù viene considerato una pianta agricola, non solo ornamentale, perché non considerarlo anche qua, visto che, chiamiamoli, i suoi frutti sono comunque dei frutti molto importanti dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista energetico. Quindi, bene, ci ha già dato un assaggio. Ora sì. Rimanga con noi, perché io, certo, voglio sentire anche un altro giovane che ha portato dei cambiamenti nell'azienda familiare. Francesco Cisarani, dell'azienda agricola Sabbiona. Buongiorno Cisarani. Buongiorno. Buongiorno. Lei nell'azienda di famiglia ha portato, mi è stato detto, grandi innovazioni sull'allevamento modello. Cosa ha portato di così particolare, per cui così me ne hanno parlato veramente diverse persone di queste sue innovazioni? Niente, noi, io e mio padre, abbiamo pensato di investire ancora di più nell'allevamento bovino, nelle vacche da latte, facendo due stalle da 100 metri di lunghezza per 40 metri e mettendo sotto degli animali nel massimo comfort possibile, cercando di avere una migliore produttività, ma soprattutto un miglior benessere per questi animali. Difatti abbiamo fatto parecchie cose sotto queste stalle per far sì che questi animali proprio rendessero al massimo, ma nello stesso tempo vivevano in una stalla che poteva essere confortevole per loro, e abbiamo fatto proprio ogni animale una cuccetta con paglia, sabbia, dei raschiatori che partono in automatico ogni ora, dei ventilatori, delle doccette, una sala di mungitura con la gomma per non farli scivolare, uno spingivacche, una... Senta, Cesarani, significa che il benessere per gli animali poi dà dei frutti importanti. Certo, dà dei frutti importanti, dà una miglior produttività, ti consente di fare il tuo lavoro nel bello di vedere gli animali tutti i giorni, perché noi siamo un allevamento appassionato anche in genetica, che facciamo mostre in tutta Europa, siamo stati classificati il miglior allevamento d'Europa nel 2004 per la genetica, abbiamo dei migliori tori per produzione di seme a livello mondiale, nei primi posti, e per cui per noi la vacca da latte non è solo produttiva in quel senso lì, ma ci aiuta a essere una pubblicità per il nostro allevamento, e nel partecipare alle mostre noi... Senta, la razza è Bruno Alpino o Frisona? No, razza Frisona. Razza Frisona. Quindi sì. Il vostro latte dove... Il nostro latte è destinazione Grana Padano. Ho capito, quindi tutto sul formaggio, insomma. Tutto sul formaggio, sì. Rimanga con noi, perché sentiamo Vittorio San Giorgio, che è il delegato nazionale Coldiretti Giovani per Oscar Green. Oscar Green è, diciamo, un premio con cui vengono messi così in risalto i giovani che si distinguono per l'innovazione. San Giorgio, negli ultimi tempi l'innovazione è molto forte nei giovani in agricoltura? Ma io direi che il messaggio che è venuto fuori dall'interpretazione proprio del concetto di innovazione da parte dei giovani che lei citava come dei piccoli pionieri che stanno letteralmente portando un grande cambiamento e un grande messaggio di propositività e modernizzazione in agricoltura, è travalicato anche in altri settori, perché le esperienze che ascoltavo, soprattutto la prima, che è un'azienda che è stata premiata proprio in Oscar Green, sono delle esperienze che ci dicono che si parte da quello che è il concetto di prodotto agricolo, ma si va oltre, perché si arriva poi a produrre cibo, o si arriva anche a fare tutela del territorio, o addirittura interpretare quell'intersettorialità che oggi ci permette di recuperare all'interno di una filiera che molte volte non è corretta nei confronti dell'agricoltura. Cesarani, volevo chiedere il ruolo dell'agricoltore, in questo caso importante come il suo, come viene visto dalla società? Dell'allevatore più che dell'agricoltore. Sì. Il problema è proprio questo, che sarebbe... Cioè questa intervista che voi fate a noi è molto importante secondo noi, perché se parliamo di settore siamo intervistati parecchie volte, ma a livello di comunicazione col cittadino non esiste, purtroppo, e quello fa un po' diciamo un po' un effetto contrario, perché in poche parole io vedo incontrando cittadini comuni, facendo capire quello che stiamo facendo, quando vengono in azienda vanno via entusiasti, ma arrivano che proprio non sanno niente di tutto quello che noi stiamo facendo legati all'agricoltura, all'allevamento, e questo è fondamentale. Se noi riusciamo a trovare una sinergia tra noi, voi e il cittadino, è la cosa fondamentale, è quello che può dare il futuro della nostra agricoltura, dei nostri allevamenti, anche perché poi nessuno sottolinea una cosa importante, che noi agricoltori e allevatori di bestiame diamo lavoro a molte persone, perché se noi siamo più produttivi, riusciamo a guadagnare il giusto, diamo lavoro a parecchie persone in più, perché la meccanica, le stalle nuove che investiamo per produrre di più, per cercare di produrre in un certo modo, i trattori che compriamo, il personale che possiamo anche offrire del lavoro in più, queste cose che non riescono a capire, in poche parole, che noi possiamo dare in futuro. De Magistris, ma in un paese di nocciole, com'è stata vista la sua attività? Diciamo che all'inizio è stata vista con un po' di petto, perché effettivamente, cioè, penso che sia stata vista così in qualsiasi posto d'Italia, perché abbiamo vinto appunto l'anno scorso sull'innovazione. purtroppo agricola. Purtroppo diciamo che si sente malissimo. Io passerei, vediamo se riprendiamo, sentiamo, ripasserei la parola a San Giorgio per chiedergli, sicuramente starete anche così esaminando le prossime candidature. Ci sono prossime candidature interessanti, San Giorgio, per l'Oscar Green? Beh, sì, c'è da dire che il concorso di quest'anno, al di là di un grandissimo riconoscimento, perché il Presidente della Repubblica ci ha confermato anche quest'anno l'alto patronato, proprio perché ha accolto in pieno quello che è il valore e il messaggio di grande comunicazione che l'Oscar Green dà, perché l'Oscar Green, e lei lo diceva prima e c'era anche un appello dell'allevatore, è uno strumento che serve a comunicare il meglio che l'agricoltura è capace di fare e di dare, e arrivare laddove spesso ai noi ci fermiamo ai numeri, perché i numeri sono sicuramente importanti ed è stato detto, l'agricoltura è un settore che in questo istante è in controtendenza ed è l'unico che sta generando occupazione con dati significativi e con l'attrazione di moltissimi giovani, e proprio questo messaggio, quest'anno il tema è il bello dell'Italia, perché con l'Oscar Green di quest'anno, diciamo conseguentemente all'assemblea che abbiamo avuto dei giovani di Coldiretti, dove abbiamo citato con un titolo l'Italia è il futuro, e insieme al bello dell'Italia vogliamo affermare che l'innovazione che i giovani stanno facendo da soli, e quindi anche la ricerca che stanno facendo da soli, se venisse supportata da un sistema che va verso questa grande capacità dei giovani di voler fare e di voler dare in termini di contributo al paese, potrebbe dare diciamo un impulso fortissimo al rilancio non solo economico ma anche sociale. Lo penso anch'io, grazie a Vittorio San Giorgio, grazie a Francesco Cisarani. Purtroppo De Magistris lo abbiamo perso, non lo sentiamo più, ma sicuramente sentiremo qualcosa di divertente. 1, 2, 3. Dal telegiornale vedo che c'è tutto che non va. Mafia, continuiamo appunto ad andare a scoprire queste realtà molto importanti di giovani imprenditori, di giovani allevatori, agricoltori, che stanno portando grande innovazione nel settore, di un settore che molti ritengono statico, ma in realtà non lo è. Bene, io ora andrei a Chiavari, l'azienda vinicola Bisson, da Marta Lugano. Buongiorno Marta. Buongiorno. Dunque, Marta Lugano ha portato un'innovazione davvero molto molto interessante. Dirò che Bisson è una vinicola importante della realtà ligure, ma la figlia, appunto, Marta Lugano, del patron, ha sperimentato un qualcosa di veramente eccezionale. Ce lo vuol raccontare, Marta? Sì, noi abbiamo creato per la prima volta uno spumante, stato fatto fermentare a 60 metri di profondità, davanti alla costa di Portofino, precisamente a Cala degli Inglesi. L'idea è nata perché volevamo coniugare la passione per il mare e la nostra attività di produttori vinicoli, e abbiamo deciso di utilizzare il mare come cantina, in quanto c'era noto che nel ritrovamento di antichi galeoni si erano riperite delle anfore contenenti del vino perfettamente conservato. E quindi abbiamo per la prima volta sperimentato, mettendo a circa 60 metri di profondità, 6.500 bottiglie, questo nel 2009, dove a questa profondità la temperatura è costante a 15 gradi, la penombra e la mancanza di ossigeno sono tutte caratteristiche ideali per la fermentazione e la maturazione. Le bottiglie rimangono circa 18 mesi sott'acqua, dove la tecnica del remuage avviene in modo naturale grazie al movimento delle correnti che cullano le bottiglie. Senta, oltre a questo esperimento voi continuate questo tipo, diciamo, di invecchiamento? Sì. Quindi diciamo che è continuo ora? Sì, continuo ogni anno. Adesso, per dire, al momento sono state immerse, stanno riposando circa 13.000 bottiglie, più 2000 di rosé, che sarà la novità di quest'anno. Senta, non avete paura che qualcuno di notte magari scenda e così faccia un furto incredibile di tutte queste bottiglie? Beh, è un po' difficile, perché comunque a 60 metri di profondità ci certo. vogliono dei subacquei apposta, dei palombari apposta, quindi è un po'... E anche comunque riuscire a ritrovare nel punto esatto, anche noi utilizziamo... tramite appunto del personale specializzato, anche un robottino che viene immerso sott'acqua e tramite la telecamera riusciamo a ritrovare il punto esatto. Senta Marta, voi sicuramente avrete assaggiato lo stesso prodotto, diciamo maturato sott'acqua e invece maturato nei sistemi tradizionali, nelle pupitre ed altro. Sì. Ecco, volevo chiederle che differenza c'è sul prodotto? Beh, diciamo che è un ottimo prodotto, che abbiamo avuto anche sono stati anche entusiaste le persone che l'hanno provato oltre a noi, e diciamo che è una cosa molto particolare, e per descriverlo, il colore giallo paglierino, un perlage fine persistente con una spiccata mineralità da fresco e sapido, e le uve sono autoctone di Bianchetta Genovese e Vermentino. È un prodotto molto veramente particolare. Abbiamo con noi, abbiamo ripescato Andrea De Magistris. Le avevo chiesto, Andrea, poi è scomparsa la voce. Le dicevo qual è la reazione a stata Cravanzana, appunto, di un personaggio che fa una cosa completamente diversa dall'agricoltore che coltiva le nocciole. Sì, eccomi qua di nuovo. La reazione era stata, insomma, di perplessità, ma anche di curiosità, anche perché, appunto, le dicevo, in qualsiasi altro posto d'Italia sarebbe stata una cosa nuova, perché siamo l'unica azienda che dubbio in tutta Italia. Però adesso, insomma, la gente si è abituata ad avere un piccolo angolo di Oriente in piena langa. Bene, grazie Andrea De Magistris, e buone chance anche per il futuro col suo bambù. Ma io voglio tornare a Marta Lugano, perché anche lei voglio fare questa domanda. Io credo che abbia destato molto attenzione questo suo metodo di invecchiamento, appunto, delle bollicine, anche da parte di enologi e di addetti ai lavori. È stato così? Sono venuti? Si sono informati? Sì. Diciamo che abbiamo visto anche che adesso anche da altre parti del mondo cercano di imitare questo prodotto, logicamente non facendolo fermentare, ma tenendo soltanto le bottiglie di vino sott'acqua. Però abbiamo avuto veramente un consenso anche nelle persone che se ne intendono, ecco, di grandi intenditori. L'hanno assaggiato e ne sono rimasti veramente entusiasti. Il gastronauta. Chi pensasse che l'agricoltura è un settore fermo, se ascolta appunto i casi di cui stiamo parlando, si renderebbe conto quanto invece sia in movimento e quanto apporto diano i giovani. Non è assolutamente vero che i giovani non amano l'agricoltura, anzi devo dire che c'è un bellissimo ritorno all'agricoltura. Ma abbiamo anche un contadino famoso, un contadino cantante, un contadino produttore di vino. Allora ascoltiamo un secondo, così ci anima un po' anche la trasmissione. Giornale, vedo che c'è tutto che non va, mafia, droga e gente che sta male, è la colpa di chi mai sarà. Ma tu lo sai che l'undicesimo comandamento è non inquinare? Il mare sta morendo di dolore. E allora è vero l'inquinamento, ma partiamo da Carlo Ballario, nostro ospite, allevatore di bestiame, quindi proprietario di un'azienda agricola a Busca in provincia di Cuneo. Buongiorno Ballario. Buongiorno, grazie. Bene, la sua è un'azienda modello. Perché è un'azienda modello? Perché viene definita un'azienda modello? Ma adesso viene definita un'azienda modello. Quando ho iniziato 20 anni fa e poi ho fatto queste strutture, mi dicevano che è un'azienda di un matto. Comunque adesso sto diventando un'azienda modello perché è tutto diverso dalle altre. Senta, l'inquinamento c'è, perché abbiamo sentito appunto questa canzone di Albano. Si può combattere l'inquinamento in agricoltura? Sicuramente sì, con dei mezzi più innovativi, se ci fossero le risorse, per carità. E continuando un po' quello che è il discorso di una volta, che l'agricoltura deve essere lasciata agli agricoltori e non agli industriali. Non facendo centrali, biomasse, biotermiche, bio questo, che di bio, secondo me, secondo molta gente, non ha un bel niente. Senta, quale innovazione ha portato lei nel suo allevamento, appunto per essere considerato, come diceva lei, così, non nella normalità, chiamiamo così? Novità che i miei animali sono 365 giorni all'anno sempre all'aperto. In paddock oppure nei campi hanno zone di ricovero per la notte o per quando ci sono delle intemperie, però sono completamente sempre all'aria aperta, non sono mai attaccate a una catena, non sono mai tenute, diciamo, in cattività, tra virgolette. Anche quei piccoli vitellini vanno con le loro mamme e non ci sono mai separati, ecco. Bene, rimanga con noi perché ora andiamo in un'azienda agricola al sud, andiamo a Monteverde di Avellino, veramente un caso davvero molto interessante e divertente, anche perché ci permetterà di parlare di birra agricola, che è una cosa di cui poco conoscono. Abbiamo Vito Pagnotta, appunto dell'azienda agricola Pagnotta di Monteverde, il quale dalla sua azienda, diciamo dall'azienda familiare, ha tratto, come posso dire, un suo lembo, si è creato una sua isola dove produce, ora ci dirà che cosa, la birra, e ci dirà come gli è venuta questa idea. Pagnotta. Eh sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia in realtà è un'esperienza che è lunga nel tempo, perché oggi è il frutto di uno studio che va avanti da un po' di anni. Infatti io di professione, diciamo che sono un agronomo, e quindi ho percorso tutta la strada della formazione in agricoltura per poter coltivare i campi, appunto, e tutti i fondi della mia azienda agricola Serra Croce, e quindi poi trarne un prodotto che potesse essere trasformato in azienda. E nel caso specifico abbiamo lavorato sull'orto e abbiamo deciso di lavorare e di produrre quindi una nostra birra. Quindi lei, diciamo che fa sia il mugnaio che il birraio, che il mastro birraio, sì, insomma. Sì, ad oggi la nostra azienda è in grado appunto di produrre cereali che ha bisogno di quelle che sono le nostre richieste del mercato, e quindi riusciamo a soddisfare i nostri clienti producendo la birra con le nostre materie prime, e quindi riusciamo a dare un prodotto che è molto radicato al territorio e che ha appunto in ogni bottiglia c'è uno scrigno, diventa ogni bottiglia appunto uno scrigno di quello che è la produzione aziendale. Noi cominciamo a fare birra l'anno precedente rispetto a quello che viene messo in vendita, perché noi cominciamo con la coltivazione appunto dell'orzo per arrivare poi alla trasformazione di questo in birra, che accade in genere appunto l'anno successivo alla coltivazione. Senta, come si chiama la sua birra? La mia birra si chiama Serra Croce, come prende il nome appunto dall'azienda agricola, l'azienda agricola Serra Croce, che è qui a Monteverde. Ma lei fa varie tipologie di birra? Noi ad oggi facciamo diverse tipologie e diversi formati. Abbiamo una tipologia chiara, che è una tipologia fatta con malto pilsen, e quindi una birra molto fresca, molto beverina, una birra molto leggera, che però allo stesso tempo porta con sé tutto l'aroma e tutta la freschezza appunto del malto, che rappresenta il nostro punto di forza, insomma la nostra caratteristica. Bene, rimanga con noi, sentiamo, ora abbiamo con noi il presidente dell'ANGA, che è Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura, Raffaele Maiorano. Buongiorno Maiorano. Buongiorno. Senta, i giovani agricoltori, molti di questi sono innovatori, quindi una spinta importante che viene data all'agricoltura da coloro che, diciamo, da poco sono entrati in questo settore. Guardi, ci siamo accorti che se non si cerca di fare innovazione, purtroppo non si riesce a essere competitivi, quindi diventa necessario. Per fortuna lo stanno capendo un pochino tutti quanti. Io devo dire che nella maggior parte dei miei associati ha un livello di scolarizzazione abbastanza alto, comunque interessato alle nuove tecnologie, sta intorno, spesso è stato all'estero, è tornato e ha portato con sé quell'innovazione, quella knowledge di base che sta aiutando le aziende a rimanere, in questo momento a rimanere a galla, domani si spera a fare fatturati più interessanti. Quindi diciamo che c'è speranza appunto per una spinta che arrivi dall'agricoltura, no, al nostro settore diciamo economico italiano. Guardi, c'è speranza, ma lo dicono anche i numeri, seppure un po' non incredibili, perché sono 0,1% nel primo trimestre, ma è l'unico settore che ha visto crescere il valore aggiunto, quindi anche il livello di occupazione. Tra l'altro c'è stato ho letto un articolo qualche giorno fa in cui si diceva che la PIL dell'agricoltura sta aumentando, addirittura il 38% dei giovani preferirebbero lavorare in un agriturismo, comunque nella vita rurale, anziché andare in un ufficio, essere dipendenti di qualcuno. Guardi, lei ha parlato di agriturismo, ha parlato appunto di scelta di questa vita, e abbiamo con noi Luca Grasselli, che abbiamo già sentito tempo fa, veramente un'esperienza straordinaria di questa azienda agricola Cascina Lago Scuro di Stagno Lombardo. Buongiorno Grasselli. Buongiorno a tutti. Che è arrivato perfino a fare l'asilo nell'azienda agricola. Sì, esatto, perché insomma sono tornato in azienda agricola dopo aver studiato filosofia e scienze gastronomiche. Sono tornato qua con mia moglie educatrice, abbiamo deciso di dare un valore aggiunto alla Cascina, che appunto per dargli un ruolo sociale. Abbiamo aperto un asilo, all'inizio era un nido famiglia, siamo partiti con 2 o 3 bambini, adesso facciamo fatica a far fronte alle richieste, abbiamo 11 bambini che stanno in Cascina dalla mattina fino al pomeriggio tardo, dal lunedì al venerdì, quindi è un'esperienza di vita, pur essendo piccoli. Senta Grasselli, non vorrei solamente ridurla all'asilo, perché la sua azienda agricola produce, quindi ci dica anche questo, nel senso che io sono partito dall'asilo, ma facciamo un po' una panoramica. Sì, la panoramica, allora l'idea di base è che un'azienda agricola, soprattutto biologica come siamo noi dal 90, debba essere vissuta come un organismo vivente, quindi si parte dalla materia prima, dalla creazione della materia prima nei campi, fino alla trasformazione. Abbiamo un caseificio con 30 vacche in lattazione brunalpine al pascolo, facciamo formaggio al latte crudo. Abbiamo 2 pollai mobili con le galline al pascolo anche loro. Abbiamo un laboratorio di trasformazione delle nostre materie prime, 2 ettari di orto, l'asilo. Diventa insomma un organismo vivente con tante persone che ci lavorano, quindi un valore aggiunto estremamente importante. Bene, devo dire, più innovazione di così si muore, ma ce n'è anche un altro. Abbiamo anche un altro caso davvero, davvero intrigante, di un giovane viticoltore di Castel Arquato, in provincia di Piacenza. Buongiorno a Massimiliano Croci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, questo lo racconto io, poi ovviamente faccio parlare anche lui. Massimiliano Croci mi stupì un po' di anni fa, mi avvicinai, era mi sembra una manifestazione locale, e mi disse che produceva ice wine. Disse ice wine in Italia, l'ho sempre sentito in Germania, l'ho sentito in Austria, l'ho sentito in Canada, dico, ma in Italia mi sembra veramente incredibile. Ebbene, lui ha rinnovato l'azienda del padre, che produceva vino con non tanto successo per il momento, per allora, si è inventato questo prodotto. Massimiliano Croce, a distanza di anni, come va? Ma va bene, è stata una scelta sicuramente difficile, perché entrare in agricoltura da giovani in un momento in cui l'agricoltore era visto un po' come un lavoro non bellissimo. Oggi tante soddisfazioni, sicuramente tanto lavoro, non è raro finire di lavorare a mezzanotte, siamo rimasti una piccola azienda a conduzione familiare, ma con tante soddisfazioni, esportiamo all'estero, e stiamo facendo anche riscoprire, oltre l'innovativo ice wine, anche i vini della tradizione, quindi le fermentazioni naturali e quant'altro in tutto il mondo. Senti Massimiliano, ma l'ice wine non riesce a produrlo tutti gli anni? No, purtroppo è uno di quei prodotti che ovviamente sono soggetti al cambiamento climatico. Non tutti gli anni arriva il freddo ideale che ci permette di avere le gelate per raccogliere questo ice wine, questa uva ghiacciata. Si raccoglie la mattina molto presto, quando l'uva praticamente disidrata a freddo, congela e quindi il ghiaccio, il liquido dell'acqua rimane ghiacciato. Massimiliano, volevo chiederti, hai parlato di fermentazioni naturali, quindi adotti agricoltura biologica o biodinamica oppure fai semplicemente in cantina, appunto non usi assolutamente niente quando parli di fermentazione naturale? Noi non usiamo chimica né in vigna, usiamo delle concimazioni un po' del porto biodinamico e in cantina, neanche in cantina utilizziamo nessun tipo di chimica. Questo non per un'idea di un po' basata sul biologico, ma più che altro sul fatto di rispettare il territorio, rispettare i profumi, le aromi che la terra riesce a dare e quindi da qui differenziarci nel prodotto vino e farlo conoscere così in tutto il mondo. Bene, abbiamo sentito veramente 5 casi straordinari, ma continueremo ora nell'ultima parte della trasmissione anche con altri case history, diciamo, molto molto rilevanti. Questo per dimostrare, appunto, lo ridico ancora una volta, l'agricoltura non è ferma, la tradizione è un'innovazione riuscita. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di innovazione in agricoltura, di giovani in agricoltura, ma vediamo un po' anche di fare il punto con il dottor Giuseppe Cacopardi, direttore generale dello sviluppo rurale. Bene, che credo abbia così sotto osservazione diciamo quello che avviene appunto nell'agricoltura giovanile. Buongiorno Cacopardi. Buongiorno. Volevo chiederle, negli ultimi anni c'è stato un ritorno dei giovani all'agricoltura? Cioè si è sentito questo ritorno in fatto di dati e di numeri? Sì, c'è stato un ritorno dei giovani, anche se siamo ancora un pochino al di sotto della media europea, siamo intorno al 5% per i giovani imprenditori agricoli con sino a 35 anni, mentre la media europea è dell'8%. Però oltre a questi 82.000 imprenditori giovani con meno di 35 anni, ci sono altri 80.000 tra i 35 e i 39 anni. Quindi c'è un piccolo miglioramento in questo periodo. Il ministro De Girolamo, nelle linee programmatiche presentate dal nuovo governo, ha messo l'accento sulla necessità di rilanciare quindi l'occupazione dei giovani in agricoltura attraverso soprattutto l'accesso al credito e l'accesso alla terra. Ecco, cos'è l'accesso alla terra? L'accesso alla terra è un programma che si sta portando avanti adesso con la Cassa Depositi e Prestiti per le cosiddette terre demaniali, se si possono offrire ai giovani per aprire nuove imprese. E questa sarebbe una grande opportunità per la nuova riforma della PAC, della politica agricola comune, che è stata approvata, come sapete, con la partecipazione del nostro ministro anche a fine giugno di quest'anno. E questa politica agricola comune prevede, per esempio, per i giovani che si insediano per la prima volta un investimento, per le spese di investimento un tasso importante. Per esempio, questa misura dell'insediamento dei giovani nell'ultima programmazione, negli ultimi 7 anni, ha visto 500 milioni di euro investiti nei programmi delle regioni per i giovani. Per cui, se si offre ai giovani terre e credito, certo, è possibile utilizzare i contributi comunitari. Bene. E su questo il ministro si vuole impegnare. Bene, grazie Cacopardi di diciamo di questa fotografia molto importante. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme. Ecco il seme, il seme. E parlando di seme, ascoltando insieme e ascoltando, diciamo, queste misure nuove per l'agricoltura che stanno per arrivare, speriamo che arrivino. Io chiamo il mio amico Angelo Manna, il quale lamenta sempre il problema del credito e sicuramente il seme mi ricorda molte cose delle sue produzioni. Buongiorno Angelo. Ciao Davide. Angelo Manna, azienda agricola AgriRape di Leonforte. Allora Angelo, tu hai portato delle innovazioni sicuramente molto importanti, sei l'unico produttore di riso in Sicilia. Hai lanciato la lenticchia nera che ancora nessuno l'aveva recuperata. Insomma, però qual è la situazione, Angelo? Ma la situazione, diciamo, tutto sommato non è particolarmente negativa, nel senso che anche la situazione generale purtroppo in Italia negli ultimi anni e un po' in tutta Europa, sappiamo tutti, non si fa altro parlare che di crisi. Diciamo che forse ogni tanto, insomma, pensando agli altri settori, insomma, il nostro, l'agricoltura, quello dei prodotti tipici, dei prodotti legati alla terra, probabilmente è uno dei settori che soffre, ma probabilmente soffre molto di meno rispetto ad altri settori. Senti Angelo, ma diciamo, abbiamo sentito queste bellissime notizie in arrivo, ma un giovane agricoltore come te in questi anni è stato sostenuto dal credito? Dal credito no, perché dal credito, quando ti presenti in banca, se non hai determinate garanzie, la banca non ti fa assolutamente credito. Quindi il giovane può essere anche un giovane, come si vuol dire, di belle speranze, può essere anche in gamba, però può avere anche una bella idea, però se non ha alle spalle magari dei genitori o comunque qualcuno che può in qualche modo garantire, è dura. Però è anche vero che ci sono, insomma, alcune misure della Comunità Europea, del PSR in Sicilia o anche nel resto d'Italia, alle quali si può accedere, anche se lì la burocrazia, diciamo, è abbastanza non è facile da... La burocrazia è sempre un osso veramente molto molto duro. Senti, ma diciamo che negli ultimi tempi, come dicevo, tu hai innovato molto, perché hai portato sulle tavole dei prodotti completamente nuovi anche per il tuo territorio. Questo come è stato preso proprio nella tua realtà, nella realtà di dove vivi? Ma nella mia realtà è stato preso in maniera molto positiva. Devo dire che, insomma, fortunatamente abbiamo avuto molte attestati di stima, insomma, un po' ovunque, soprattutto ora il discorso del riso, che è l'ultima avventura nella quale ci siamo cimentati, devo dire che ha avuto una grande risonanza, però insomma... Che varietà era il riso che tu hai, che stai producendo? Allora, il riso che abbiamo prodotto, diciamo, i primi due anni è stato arborio, quest'anno però stiamo anche producendo un po' di carnaroli da abbinare all'arborio, soprattutto alcuni clienti, ad esempio molti chef, insomma molti ristoranti ci chiedono anche il carnaroli per fare il risotto. Rimani con noi, sentiamo un tuo collega a Santa Marina di Oriolo, in provincia di Cosenza, Luigi Adinolfi. Buongiorno Adinolfi. Buongiorno a voi. Allora, lei ha fatto una grande innovazione, mi dicono che ha fatto un liquore molto interessante, ma da dove arriva questo liquore? Ci racconti un po' questa storia, perché è molto intrigante. Sì, l'Amaro Olivar è un liquore che già si faceva da me in campagna, in Contrada Santa Marina, siamo nel comune di Oriolo, come ha già detto, nell'Alto Regno Cosentino. Io spesso a volte mi chiedo come hai fatto a inventare un amaro all'olivo che deriva dall'olivo, ecco. No, assolutamente, non l'ho inventato, non ho fatto altro che imbottigliare e brevettare un qualcosa che già veniva fatto da me in campagna. Inizialmente erano i miei nonni, poi abbiamo l'agriturismo Santa Marina, che ha quasi 20 anni di età, e qui davamo sempre questo liquore come amaro della casa, semplicemente come amaro della casa. Ma voi, diciamo, l'azienda è nata come produttrice di olio, quindi all'inizio? Sì, inizialmente è nato come semplice agriturismo, perché inizialmente era solo una campagna nella quale si allevavano gli animali, avevano i miei nonni le piante di olivo, un noceto, qualche albero da frutto. E la curiosità era quella che si generava poi nei clienti dell'agriturismo, abbiamo aperto nel 1996 e qui i miei genitori e poi anch'io crescendo davano sempre l'amaro Ulivar, però ancora non aveva questo nome, come semplice amaro della casa. La particolarità che aveva era l'odore di frantoio, ecco, che subito veniva rilevato come odore particolare, però nessuno riusciva a identificare, ecco, in che modo, quali erano gli ingredienti di questo liquore amaro, che inizialmente era poi anche molto molto più alcolico e molto più rudimentale di quello che imbottigliamo adesso. Senta, qual è la cultivar da cui produce appunto questo liquore? Ci sono quattro varietà diverse di cultivar che rientrano poi in quello che è il procedimento che segue la ricetta contadina da cui è nato l'amaro. Ecco, ma voi lo vendete solo da voi oppure diciamo lo distribuite anche in giro per l'Italia o all'estero? Allora, noi abbiamo iniziato soltanto in agriturismo, dandolo ai clienti sia italiani che stranieri che venivano lì. E poi il gradimento che generava nei clienti ci ha spinti a creare inizialmente un sito web interamente dedicato all'amaro, ecco, separato da quello dedicato all'agriturismo. Abbiamo iniziato imbottigliandolo, etichettandolo con alcune fiere, degustazioni, e da lì poi è arrivato anche il premio nazionale Oscar Green, sono arrivati gli ordini e abbiamo iniziato a spedirlo inizialmente soltanto in Italia e successivamente anche all'estero. Io voglio tornare da Angelo Manna per così chiedere un po', appunto, perché lui, oltre diciamo i prodotti che abbiamo sentito, è un produttore di pesche tardive e di ottime marmellate. Quindi la cosa che mi ha colpito molto, Angelo, nel vedere le tue marmellate, appunto la serie delle tue marmellate che ogni anno diciamo aumentano, e soprattutto mi ha colpito il fico d'India. Ma come si fa a ottenere la marmellata dal fico d'India? Perché penso che sia abbastanza difficile. Sì, diciamo che è abbastanza difficile per via dei semi, essenzialmente, oltre che per la buccia, però per quello diciamo ci sono dei guanti adatti per cui riusciamo a toglierla senza farci male. E poi i semi vengono tolti con un dotaggio fatto apposta, insomma. E sì, è abbastanza difficile, però il risultato finale sicuramente è abbastanza interessante. Sì, è abbastanza interessante perché è anomalo, cioè è difficile da trovare. Uno quando vede marmellata di fico d'India dice: ma come avrà fatto? Bene, io comunque ringrazio Angelo Manna, azienda agricola Agrirape di Leonforte, e Luigi Adinolfi, azienda agricola Santa Marina di Oriolo in provincia di Cosenza, perché come avete sentito anche loro sono due giovani innovatori, sono due giovani agricoltori che hanno veramente innovato e ancora una volta sta a dimostrare come questa realtà appunto del ritorno alla terra stia dando veramente dei frutti molto ma molto interessanti. Bene, siamo alla fine, abbiamo fatto questo viaggio, abbiamo scoperto tantissimi nuovi prodotti, tantissimi nuovi personaggi e abbiamo sentito appunto da il direttore generale dello sviluppo rurale che ci sono, c'è credito e c'è possibilità di terre, così sulla carta appunto, a invogliare altri giovani a tornare all'agricoltura, visto che la nostra percentuale di giovani in agricoltura è ancora al di sotto di quella europea. Bene, un caro saluto dal vostro Davide Paolini e appuntamento sicuramente alla prossima settimana, sempre parlando di agricoltura.